Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Massimo Brugnone oggi in redazione, Paolo Corleone in regia. Credo che quest'anno nello spogliatoio dell'Inter ci sarà abbastanza da ridere. Derby sotto passaggio di San Siro. Io saluto tutti, poi vabbè, il Nesta lo conoscevo, te ricordi così, più che conoscevo e te ricordi, e da lontano mi sento strama, mi giro, Cassano, oh strama, bene, oh, mi sento bene, sì, non so, oh bene, dico sì, fai, sai, una situazione un po' difficile, ma che cazzo ti frega, ma qua bene, fa, oh, ma guarda qua, guarda che nel calcio se fai bene parano subito, i giocatori parano subito, io abbiamo due piani sopra Wes mi ha detto, questo qua è un fenomeno, questo, dì, vabbè, forse Wes ha un po' esagerato, oh Wes, guarda che non dà retta manca a padre e la madre, eh. Questa imitazione è straordinaria. Io sfido gli imitatori di tutta Italia a fare Cassano meglio. Intanto oggi per parlarne, visto che è fatta, Pazzini ha fatto visite mediche, è a Milanello, oggi firmerà il contratto. Cassano ha detto ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che pure oggi sosterrà le visite mediche in nerazzurro, anche se Moratti ha detto non abbiamo ancora concluso, si trattava di mettersi d'accordo sui soldi del contratto biennale per Cassano, credo a 3 milioni quelli che guadagnava al Milan, triennale per Pazzini 2,8 per 3 stagioni. Allora la palla ai tifosi, perché io voglio sapere cosa ne pensano, e allora ne abbiamo convocati due importanti. Uno, medaglia d'oro olimpica, Igor Cassina. Ciao Igor. Buongiorno a tutti. E l'altra è una grande voce milanista, Gio Squillo. Ciao Gio. Ciao a tutti. Ciao. Che onore essere di fianco a Cassina, insomma, un uomo che è un mito per adesso... noi italiani. Reciproco, addirittura il derby comincia male perché vedo troppo, sì. Fair play, eh? Ma guarda, veramente credo che ormai sia proprio il savoir faire la parola d'ordine per quello che succede nel mondo, nelle vicende personali e anche nel calcio, e vedo che un po' le cose stanno cambiando, anche se devo dire la verità, finalmente Cassano è internato, eh? Eh sì, insomma, finalmente ha trovato la sua giusta collocazione. Questa non è male. Cosa dice Igor? Ma allora, da tifoso e da sportivo a 360 gradi, credo che possa essere una scelta buona per noi interisti. Pazzini è un grande giocatore che serviva in casa Moratti, però d'altra parte si fanno delle scelte e probabilmente i soldi che entreranno potranno anche essere gestiti per fare anche ulteriori acquisti. Io credo che Cassano abbia dimostrato, nonostante i problemi che ha avuto questo ultimo anno, gli europei comunque ha giocato bene, è un ottimo fantasista e credo che insieme ai migliori centravanti che abbiamo, i nostri attaccanti con Snyder, Milito, Maicon, se rimarrà, che ancora insomma è un po' in dubbio, non si sa, credo che potrebbe essere la scelta giusta. Poi caratterialmente credo che abbia dimostrato di avere un certo equilibrio, quindi siamo fiduciosi. Sicuro che insomma, dovete avere tra virgolette Gio. Caratterialmente in campo, poi dopo il fatto che uno possa esternare un suo pensiero, quello poi No. Sue, però no, in campo... ma, sai, dimmi Gio. No, perché insomma ci fa piacere, poi è un grande, figurati, è un grande fantasista, però aveva giurato che praticamente era l'ultima maglia che avrebbe indossato, e nel calcio non si fanno queste cose, non si dice una cosa che non pensi e che poi dopo soprattutto non puoi mantenere, anche se ovviamente la tentazione è forte per un pazzo sregolato come lui, ma da altrettanto molto bravo, molto geniale. Sì. Diciamo che sono concordo in tutto con Igor, quindi lo scontro non esiste, perché che anche noi diciamo. Si fa alla fine Pazzini forse è proprio una scelta giusta, no? Anche per il tipo di schema insomma che ha Allegri, quindi ci serviva anche a noi un centrocampista puro, quindi anche perché con Robinho centravanti dove vai? Ci vuole una sicurezza. Comunque diciamo che la squadra sta prendendo dei connotati che forse sono più al passo con i tempi, cioè oggi non c'è più quell'idea di poter comprare il campione, cioè non ce lo possiamo permettere, ma nessuno, non è neanche morale, voglio dire, cioè non è neanche, cioè ormai vuoi un campione e compra Messi, 100 milioni ce li hai, questo gli arabi, ce li hanno gli arabi, cioè esatto, ce li abbiamo, no, ma non è neanche giusto, non ci interessa farlo, allora ricostruiamo quello che era un po' un tempo, no? Cioè i grandi vivai, i grandi giovani, quelli che fanno sudore e non fanno scalpore, però probabilmente fanno la squadra. Ecco, allora facciamo più una squadra, e forse questo è un po' il messaggio anche di tutto, forse di tutta l'Italia, no? Che dovrebbe essere più squadra e meno voglio dire, che poi possono cadere. Parata di stelle, anche se ho l'impressione che tutti inseguiranno la signora da lontano quest'anno. Il Milan comunque perde un altro po' di fantasia, perde teste calde come Ibrahimovic e Cassano, l'asylum si svuota, però... Perde fondamentalmente Thiago Silva, che anche comunque è stato un uomo veramente una colonna, insomma, al pari di Baresi, quindi comunque sicuramente. Però è anche vero che... i giovani promettono bene, insomma, quindi io non sarei così. Così pessimista. Igor Cassina invece credo che Milito, ricordando il Pazzini della Sampdoria, possa sperare in qualcosa di buono da Cassano. Sì, io in merito, per quanto diceva Gio sul vivaio di far crescere i giovani, giustamente, noi abbiamo fatto crescere un grande giocatore che è destro, che dovrebbe andare alla Roma, e credo che sarebbe un giocatore che potrebbe essere estremamente utile all'Inter, anche perché è sempre stato nostro e cresciuto nel nostro vivaio. E va della Roma, quindi ormai quindi, poi ce n'è un altro che aveva una certa testa come Balotelli, che secondo me è il più forte di tutti, di quelli cresciuti nel vivaio dell'Inter di recente. Lo possiamo definire un po' il genio ribelle, perché è ovviamente un grande talento e l'ha dimostrato comunque nell'ultima edizione degli Europei. Sì, però ha dimostrato che, sinceramente, ha dimostrato che basta, che anche basta, voglio dire. Cioè, sì, allora io cerco sempre di mettermi un po' nella testa. Cioè io sono veramente intollerante a un certo atteggiamento dei calciatori ancora, che fanno queste bizze, che sono troppo giovani, troppo inesperti, ma già troppo arroganti. Non si può spaccare il mondo senza sudare, cioè, voglio dire. Bisogna anche tenere in considerazione che devi lavorare con armonia, quindi, cioè diamo dei messaggi, perché questi ragazzi, anche i giovani, cioè questi si avvicinano al mondo del calcio, ma quali valori gli diamo? Ma non voglio fare un discorso moralistico, ma proprio lo vediamo, cioè ormai è soltanto un arrivismo, ormai è soltanto arrivare, e non è più questa voglia di sudare, di faticare, di creare le strategie, è un cavalcare gioco, no? Ma è anche un cavalcare cavalcare un grande talento che uno ha. Igor Cassina diceva a 20 anni speriamo che a 22-23 diventi Ometto, no? Come ha detto un giorno De Rossi, anzi Ometto lo è già. E io ho sempre fatto uno sport totalmente diverso, no? Dove alla base ci sono veramente delle regole, che non ci sono nel calcio, però sai, ti trovi a una giovanissima età, nell'adolescenza, e la società purtroppo, per come si sta sviluppando, ti porta magari in questo sport ad avere tutto subito, e io non lo so per esperienza, perché ripeto, ormai ho 35 anni, ho fatto un certo percorso, sono cresciuto in maniera diversa, però mi metto nella testa di questi ragazzi che inseguono magari un mito, si trovano ad essere lì a poter avere tutto in maniera così facile, e credo che non sia neanche una situazione facile da gestire. Ripeto, non è una giustifica per i comportamenti a volte non proprio idonei, anche no, come certo. Riferimento allo stile di vita e all'educazione anche per i ragazzini che crescono, lo so. Però, ripeto, da una parte possono anche essere giustificabili in parte. Ecco. Infine, per chiudere, Gio, ci vorrebbe un Igor Cassina calciatore con questa testa, no? Com'è? Ci vorrebbe un Igor Cassina calciatore con questa testa. Bravo, stavo dicendo la stessa cosa. Cioè, però tu, Igor, cioè, voglio dire, c'è un esercizio che ha il tuo nome, voglio dire, il tuo obiettivo, credo che al di là dei successi, ovviamente, ma è proprio quello, cioè di mettere il nome o la firma su un qualche cosa che rimane nella storia, delle imprese, delle cose, cioè anche delle azioni epiche, no? Ma al di là dei soldi, al di là dei valori, al di là delle buttade, anche... cioè c'è un pochino più, forse anche nel tuo sport, più che nel calcio, c'è anche un pochino più, io so perché ho fatto anche io atletica leggera, insomma c'è molta più, come dicevo, profile, molto più savoir-faire, molto più più eleganza, no, nel fare le cose. Forse il calcio ha bisogno anche di questo, forse il fatto che oggi siamo in una grande crisi forse ci può aiutare anche a ridimensionare e a rivedere quelli che sono poi i percorsi, no? Io leggevo l'altro giorno, leggevo appunto ieri un articolo della tennista cinese che ormai è riempita e subissata di sponsor, guadagna miliardi, miliardi, miliardi, è la numero uno oggi al mondo. E l'intervista diceva: ma come mai stavi perdendo un set e cosa può rimontare a creare questa grinta? Lei risponde pacifica: il Monte Premi. Cioè, capito? Mi bastava già. Stato onesta, è stato onesto. Un po' il valore, no? Cioè, anche i cinesi, insomma. Come si diceva in un film, non ricordo quale, bisogna seguire la scia dei soldi. Ragazzi, io vi ringrazio e vi saluto. Igor Cassina e Gio Squillo, è stato bello. Grazie, un bacione, grazie a voi. Grazie. Dunque, dai, con due tifosi illustri abbiamo aperto, con altri non meno illustri che aspetto al telefono 800 24 00 24. Continueremo dopo il traffico. A tempo di sport. Chi come Nicola via SMS 349-238-6666 contesta l'affermazione di Gio Squillo, Thiago Silva come Baresi. Baresi è una bandiera, Baresi qualcosa di più ovviamente per il Milan, però Thiago Silva in questo momento è il più forte difensore centrale del mondo, a mio parere. C'è un messaggio interessante di Gino che scrive: Cassano, Snyder, Coutinho, Palacio e Alvarez, tutti giocatori più o meno simili, la confusione è tornata a spadroneggiare in casa Inter, Allegri invece ha ottenuto il tipo di giocatore che per il suo gioco è fondamentale. Doppio errore dei soliti improvvidi dirigenti nero-azzurri, questo è il pensiero di Gino. In parte condivido, perché Cassano va ad aggiungersi alla lista di rifinitori, trequartisti, mezzi attaccanti, eccetera, eccetera. Però è un giocatore talmente particolare e soprattutto avendo una prima punta come Milito, che però al momento non ha, e questo è un altro punto, un ricambio certo. Milito avrà una valanga di palloni, no, da giocare. Milito potrà tornare a segnare a raffica, quindi se non glielo dà Cassano glielo dà Snyder o Palacio, eccetera eccetera eccetera. Manca però e non so se arriverà un backup per Milito nel caso in cui gli venga il raffreddore. Marco da Biella. Sì, buondì, ciao. Io chiamavo per questo motivo, perché alla fine mi sembra un po' di vivere un po' in un mondo di ipocriti, ma forse questa è una cosa. E perché un po' mai? Facciamo tutti i discorsi fair play finanziario, non bisogna spendere, è giusto, basta con certi atteggiamenti, però io sono un povero tifoso del Torino. Io ringrazio Cairo che è riuscito a tenere Ogbonna, ma per quanto ce lo riesce ancora a tenere? Quindi tutti diciamo non bisogna essere, spendere, ma non sai, è. Bisogna, Marco, poi, bisogna essere, può essere anche un investimento e tenere Ogbonna, lo tiene ancora una stagione, esplode, fa un grande campionato in Serie A, insomma, e poi così lo vendi di più. Esattamente, però allora a questo punto o finalmente mettiamo un tetto agli ingaggi come fanno negli Stati Uniti, lasciamo comunque che le squadre possano partire tutti da un certo livello, perché sennò siamo sempre solo qui a parlare delle solite 3-4 squadre, dei soliti 3-4 giocatori e poi va a finire che arriveranno gli arabi, prendono tutto quello che hanno da prendere. Ma no, tranquillo che gli arabi qui non vengono, sono mica matti, sono arabi mica matti, cioè sono mica degli sprovveduti, quanti ne hai visti dalle nostre parti, vanno in Inghilterra, vanno dove ci sono regole di ingaggio un po' diverse rispetto alle nostre, allora, caro Marco. È ora che anche queste regole vengano applicate in Italia, però, perché sennò non arriveremo da nessuna parte. Ho capito, però io ho l'impressione che la tendenza sia quella inversa. Grosso modo è sempre stato così, no? C'erano le grandi che potevano spendere di più, eccetera, eccetera. Adesso io credo che dal punto di vista europeo il circolo sia ancora più ristretto, cioè rientrano Real Madrid e Barcellona che hanno moltissimi debiti, le loro politiche societarie, anche qualche grana con le banche ormai cominceranno ad averla vista la situazione economica, ma poi ci sono quelli Mansour al City, ci sono quelli al Paris Saint Germain e c'è stato e c'è ancora Abramovic al Chelsea, e con questi la gara non la puoi fare, ma non la può fare nessuno, io credo che quello stagno sia davvero troppo ristretto. Non ci sono altre possibilità, cioè non puoi fare la guerra economica con questi. Io ti voglio un giocatore, se lo vanno a prendere, anche se non prenderanno De Rossi, che alle 15 farà una conferenza stampa in cui credo dirà grazie ma al Chelsea, al Manchester City non vengo, nonostante la montagna di denaro che i Mansour erano disposti a versare sulla Roma e sul calcio italiano, perché c'è anche qualche quest'altro aspetto. Regole del fair play finanziario, chi se ne infischia per loro per il momento, e poi vedremo. È anche vero che su un movimento calcistico europeo depresso economicamente come mai lo è stato, sono arrivati questi e hanno foraggiato un po' tutti. Roberto, provincia di Treviso. Sì, buongiorno gente. Buongiorno. Senta, io vorrei dire tante cose, ma ne dico una soltanto. È una comica quella, secondo me, di Cassano, perché Sky sta facendo passare l'intervista che fece quando approdò al Milan, che sicuramente lei conosce. Sì. E vabbè, io direi che se è vero quello che ha detto, che sicuramente è vero, Gattuso, che lo spogliatoio era diventato una polveriera, probabilmente anche qualcosa da di là ne deriva, quindi voglio dire, meglio che se ne vada. Beh, al Milan si sono liberati non è la parola giusta, hanno ceduto due giocatori, uno grandissimo come Ibrahimovic, un altro mai totalmente espresso come Cassano, che erano due caratteri estremamente difficili che, guarda caso, andavano piuttosto d'accordo. Ma Cassano aveva già detto agli europei che sarebbe andato via tra le righe, a modo suo, eccetera eccetera. Poi il giorno che è arrivato a Milanello sicuramente ha detto io qui non ci sto più, adesso faccio la valigia, perché ha fatto così. Mi scusi, è vero. Probabilmente, come ha detto un giornalista, io ascolto molti, poi penso per me, come bravissimo. Ecco, come bisogna penso fare le mie cose, cerco di ponderare. Probabilmente si è anche giocato il posto quando ha rilasciato la dichiarazione, ma io con questi due venduti non ci sto qua. Una società comunque non è mai da discutere quello che la società fa, sei pagato per stare lì. Detto questo, mi scusi, comunque voglio concludere con una cosa molto importante. Non sono mai riuscito a telefonarvi per questo. Io comprerò l'abbonamento di nuovo al Milan quando cominceremo di nuovo a capire che bisogna mettere in campo i giovani, bisogna fare una dichiarazione serena che per 3-4 anni non si vincerà nulla. Perché questa è la base. Questa è la base nella cultura dello sport. L'abbiamo fatto molte volte, Roberto, questo discorso. Io ho detto che i tifosi, quelli veri, quelli sani del Milan, cioè non possono tollerare le bugie, cioè non possono dire questa squadra, non possono raccontargli che questa squadra è competitiva, che è tornare sul discorso del club più titolato al mondo, eccetera, eccetera. I tifosi del Milan auspicano una ricostruzione, le ricostruzioni sono lunghe e attraversano per forza dei passaggi a vuoto, quindi il Milan mi sembra ancora una squadra che non ha deciso dove andare, né dal punto di vista anagrafico né dal punto di vista della costruzione. Insomma, non è una squadra nuova, non è una squadra particolarmente giovane, è una squadra che tenterà di fare con quello che ha. Io credo che sia da terzo posto il Milan, credo che attualmente sia una squadra da terzo posto. Dunque, grazie Roberto, andiamo a Reggio Emilia da Mauro, poi in provincia di Modena. Mauro? Sì, ci sono? Certo che c'è. Tanto complimenti per la trasmissione. No, io volevo fare solo una domanda da tifoso milanista. A parte che io avrei cambiato Allegri, perché lo scudetto per me l'ha perso lui, ma questo è un dettaglio. Sì. Non capisco, in due anni ha fatto fuori. Forse Nesta, l'avrebbe fatto anche Berlusconi, Forse l'avrebbe fatto anche Berlusconi. Cassano. Sì. Ho un problema di allenatore che ha dei rapporti pessimi con tante prime donne, o c'è qualcos'altro che non riusciamo a capire? Io questo proprio non me lo spiego, se non lo sa spiegare lei, perché è impossibile che in due stagioni, per l'esattezza, ci tagli le gambe così, con anche a ragion veduta per alcuni, ma con tutti i migliori giocatori che abbiamo. Aspetto la risposta, grazie. Ma io non ce l'ho, una risposta non ce l'ho, Mauro, perché è chiaro che Allegri non fosse particolarmente in sintonia con alcuni giocatori, tra cui Ibrahimovic, però è mica fesso, quindi non credo che abbia imposto lui la cessione di Ibrahimovic, perché altrimenti sarebbe stato così ripreso, uso questo termine, da Berlusconi, come quella volta che Sacchi disse io Van Basten, prego mister si accomodi. No, credo che il discorso stia a metà, nel senso che non andava particolarmente d'accordo con una parte dello spogliatoio, quindi ha fatto una certa epurazione. È anche vero che il Milan si è liberato di ingaggi pesanti, ha fatto cassa con le cessioni di Thiago Silva e di Ibrahimovic, non certo con quella di Cassano, dovrà sborsare questi 7 milioni all'Inter, risparmierà qualche soldo sul contratto del giocatore. Non dimentichiamo che Cassano guadagna comunque 3 milioni netti l'anno, che sono, leggevo oggi, quelli che De Laurentiis potrebbe dare a Cavani, tanto per dirne una, quindi non pochissimi soldi. Gianluca, provincia di Modena. Buongiorno. Volevo fare una domanda, una curiosità mia, perché io sono tifoso milanista, però quello che non ho capito del Milan, a parte le cessioni che sono state necessarie, ma a parte quello che non ho capito è che il Milan ha due posti da extracomunitario. Bene, la prima l'ha occupata con un terzo quarto portiere. Io questa politica io non l'ho capita, a me dà l'impressione che il Milan abbia fatto questo risanamento, sì. Io sono arrivato a questo punto perché comunque Berlusconi voglia cedere la società a qualcuno, perché altrimenti non si può dare ragione a una politica nella società, che capisco che voglia risanare il bilancio, però da passare, è stato buono lei quando prima ha detto che siamo da terzo posto, Io sono andato a vedere a Milano la partita domenica e forse da terzo posto sarebbe un risultato ottimo. Beh, sarà interessante vedere chi si mette nella scia di una Juventus che per me è imprendibile, per tutte. Sarà interessante vedere la Roma di Zeman, sarà interessante vedere quanto è in grado di crescere ancora il Napoli, e poi capiamo il ranking delle milanesi, capiamo quale può essere la posizione delle milanesi. Beh, insomma, io non lo so, se è sempre stata smentita questa voce che circola da anni secondo cui Berlusconi vorrebbe cedere il Milan, certamente non ha più voglia di versare denari nel Milan, almeno per il momento, questo mi sembra evidente, ma d'altra parte è stato anche dichiarato. A tempo di sport. Michele Criscitiello da Sport Italia Speciale Calciomercato, buongiorno. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a voi. Come stai in queste ultime ore di mercato? Il bollettino della borsa, se vogliamo fare il bollettino del mercato, la borsa chiude però, Sì, La vedo dura, la vedo molto dura. Il caso Velázquez del Genoa è emblematico, secondo me siamo arrivati davvero alla frutta in questo calciomercato. Sì. Se vogliamo riassumerlo in 30 secondi, sì. Il Genoa acquista un giocatore, ancora non è chiusa la sessione di calciomercato e già lo ha perso, come doveva pagare l'Independiente, ovvero gli argentini, per Velázquez. Invece Preziosi non ha dato neanche l'acconto alla società argentina, che adesso ha inserito paradossalmente Velázquez nella lista della Coppa Libertadores. Se si riprende il giocatore, e c'è stata una clausola che abbiamo scoperto, adesso possiamo dire anche agli amici di Radio 24, dal 10 agosto se non paghi quello che devi pagare all'Independiente, tu Genoa sei costretto ogni giorno a pagare una multa che corrisponde a 2.000 euro al giorno. Dopo il 10 agosto, siamo all'11, fatevi il calcolo, già sono 22.000 euro di multa, ma il giocatore lascia l'Italia, lascia il Genoa e il suo agente è imbufalito. Quindi siamo alla frutta, quindi non vedi i classici fuochi d'artificio degli ultimi giorni di mercato. Fuochi d'artificio ci sono, però purtroppo sono le micette, siamo lì. Le micette, sì, perché se Cassano lascia il Milan per andare all'Inter e se si muovono 7 milioni per un'operazione Cassano-Pazzini, possiamo al massimo fare degli scambi in casa. Questo cosa significa? Che non possiamo uscire neanche da Milano, e quindi Milan e Inter sono costrette a sedersi allo stesso tavolo perché hanno lo stesso problema, ovvero il cash, ovvero la liquidità, ovvero il fatturato e il bilancio. Quindi Cassano può anche andare all'Inter, probabilmente cambierà gli equilibri, questo non lo so, però l'Inter che deve andare su Fabio Quagliarella per cercare di sostituire Pazzini, perché Cassano comunque non è il sostituto di Giampaolo Pazzini. Il Milan prende un attaccante, ma non ha preso il sostituto di Zlatan Ibrahimovic, perché poi possiamo parlare di quello che volete. Anche perché non c'è. ma appunto, ma non c'è, però neanche ti puoi presentare all'inizio del campionato con lo scorso anno i centrali difensivi del Milan si chiamavano Nesta, Thiago Silva e Nesta, quest'anno sono Acerbi, Zapata oppure Bonera. Gli attaccanti titolari del Milan alla prima giornata erano Cassano e Ibrahimovic, quest'anno sono Robinho e Pazzini, Opato, certo. Robinho, fate vabbè, voi no, però è evidente, siamo davvero... è evidente che il Milan si è indebolito in maniera considerevole, questo non lo mette in dubbio nessuno. Possiamo quindi accantonare anche il sogno Kakà? Di questo passo sì, non c'è una. Allora, di questo passo sì, ma attenzione, perché poi giustamente qualcuno ci dice: ma voi siete gli stessi che una volta a Radio 24 avete detto Thiago Silva non parte più. Ma qui può succedere di tutto, siamo d'accordo, ma se Thiago Silva rinnova il contratto con il Milan e poi viene ceduto al Paris Saint-Germain, noi probabilmente possiamo anche dire una cosa un giorno e poi il giorno dopo cambia, ma io penso che la colpa non sia tanto nostra, sia soprattutto di un mercato assolutamente paradossale, scellerato, perché se un giocatore rinnova il contratto e poi allo stesso tempo viene paradossalmente ceduto al Paris Saint-Germain, significa che probabilmente qualcosa è venuto meno. Secondo me la parola del cavaliere Silvio Berlusconi significava qualcosa, perché se Berlusconi ci dice Thiago Silva fuori dal mercato perché prevale ancora una volta il cuore rossonero della famiglia Berlusconi, Ibrahimovic resta al 100%, secondo me la parola di Berlusconi vale più di tante chiacchiere. Invece questo mercato ci ha dato delle altre risposte. Certo. Tre cose, secondo me la prima, secondo me la Juventus non prende il top player, ma forse nemmeno le serve. Siamo d'accordo, anche perché Llorente a quanto pare c'è la Premier in pole position. Poi De Rossi tra meno di mezz'ora dice che resta alla Roma. Sì, siamo d'accordo, però aspettiamo questa mezz'ora e non facciamo brutte figure. Cavani è un caso irrisolto. Resta a Napoli, ma con una finestra sul futuro che rischia di aprirsi per far sì che ci sia un nuovo, tra virgolette, caso o trattativa, chiamala come vuoi, Ezequiel Lavezzi. Però in questo mercato non è un problema che ci riguarda. Sì, io credo che De Laurentiis farà a Cavani il discorso che ha fatto Lavezzi pari pari. Gli aumenta un po' l'ingaggio, arriva a quei 3 milioni netti più i premi che il giocatore, cioè no, non che il giocatore chiede, che può offrire, perché il giocatore ne chiede molti di più, e poi dice... ti prometto che l'anno prossimo te ne vai, è così? Sì, sottoscrivo anche le tue virgole, forse non arriviamo a cifre così importanti, però sarà leggermente accontentato e poi il prossimo anno il Napoli dovrà inventarsi qualcos'altro. Secondo me però il Napoli un colpo in attacco ancora potrà farlo, mentre dobbiamo analizzare il mercato, perché noi parliamo sempre male di un mercato brutto e soprattutto di un mercato povero, sì. Ma dobbiamo fare complimenti all'intelligenza e anche alle spese della Fiorentina. Bravo, stavo arrivando lì. Scusami. No, stavo arrivando proprio lì, perché secondo me la Fiorentina ha fatto un grande mercato. Adesso spunta questa pista Berbatov, che forse sarebbe un po' fuori, credo fuori portata dal punto di vista economico, dal punto di vista salariale, no? Sì e no, sì, perché è un ingaggio importante, la Fiorentina, ancora un tesoretto, perché nonostante i tanti acquisti non ha speso tantissimo, proprio per questo merita gli elogi, perché ha lavorato con il cervello, con l'astuzia, con l'intelligenza, e ti ha fatto uno squadrone in 7 giorni, Daniele Pradé, dimostrazione che se quella Roma di Sensi funzionava era per merito dei dirigenti, anche senza soldi. Per quanto riguarda Berbatov, ieri alle 18 era stato bloccato dal Milan, qualora non fosse andato a buon fine l'affare Pazzini-Cassano tra Milan e Inter. Berbatov vuole arrivare in Italia, il suo agente lo sta proponendo a tutti, la Fiorentina potrebbe essere piazza gradita. I Viola chiuderanno il mercato con un terzino sinistro, piace Monzon, ex Boca. Per quanto riguarda l'attacco serve una prima punta, secondo me tu prima parlavi di Cavani, Jovetic, non è questo il suo mercato probabilmente, ma anche lì c'è una finestra aperta che molto presto ci dirà qualcosa di importante. Grazie Michele, buon lavoro. A voi, buona giornata, ciao. Ciao Michele Griscitiello, Antonio da Como, Franco da Mantova, Antonio. Grazie, salve, buongiorno Grazie. Buongiorno, sì, sono Carlo Genta, dica. Dica. L'ho chiamato perché io sono interista, però negli interventi dei tifosi milanisti vedo che viene non sottovalutato, non viene fatto presente la svolta che c'è stata l'anno scorso col Manchester City, la questione Pato e Tevez, è proprio una scelta. Adesso non so, anche il padre e la figlia di Berlusconi che dietro influenze di Pato abbia, cioè, c'è una nuova linea nata in quel momento lì. Cioè, mi sembra che c'erano delle difficoltà di spogliatoio tra Pato e Ibrahimovic di sicuro. Ibrahimovic, perciò penso che sia sopravvalsa quel tipo di impostazione lì, e non so se i capricci o le volontà della figlia hanno prevalso. No, non so nemmeno io, e guarda. Ci sono delle influenze di impatto sulla figlia, so di fare un certo lì. Guardi, io so solo che Galliani è andato a Manchester e ha costruito con grande abilità un castello perfetto, era tutto pronto, poi è arrivata la telefonata, non se ne fa più niente, e Galliani non l'ha presa benissimo, questo glielo posso assicurare. Poi non so da chi sia venuto l'alt dello stop eccetera. Pato è un giocatore che a me piace da morire, ma è ancora un giocatore affidabile? È un giocatore affidabile? Questo non lo so. E credo non lo sappia forse nessuno. L'ho visto domenica entrare in campo, mi sembra un po' il reuccio della situazione, però lo devi mostrare in fatti, non perché è l'uomo della figlia di Berlusconi. No, ma non c'è discussione, non c'è discussione. Il discorso è che il discorso vero è che Pato è un giocatore a rischio, e a quell'età insomma non credo che il Milan possa fare stabile affidamento su un Pato che ti gioca 30 partite. Però mi sembra che abbiano scelto questa linea della figlia. Beh, sia della figlia, del padre, eccetera. Sono sempre figli. Sì, no, ma possiamo ipotizzare quello che vogliamo, Possiamo ipotizzare quello che vogliamo. La verità è che Ibrahimovic è andato via, Pato è rimasto. Un grande giocatore con grandissimi problemi fisici. Quindi è evidente che il Milan farà affidamento su Pato, che però rimane un giocatore a rischio, e il Milan perde anche, per inciso, tanta potenza ovviamente lì davanti, oltre a tutto il resto senza Ibrahimovic. Perché? Perché Pazzini è un giocatore che è fondamentale adesso per il Milan, non poteva fare a meno di una prima punta, ma l'abbiamo visto anche domenica, cioè presentarsi con Robinho prima punta vuol dire alzare le mani. O ti inventi qualcosa di stile Roma con Totti prima punta, ma non mi sembra il caso, oppure un centravanti serviva. Il cambio dell'anno è stato via Ibrahimovic, dentro Pazzini, che a me piace molto, ma non è Ibrahimovic naturalmente. Franco da Mantova. Salve. Salve. Pronto? Pronto, eccoci, sono qui. Ecco, no, volevo dirle una cosa. Anche io non concordo con lei sul fatto che gli investitori esteri non vogliono investire sul calcio italiano. Perché ho, diciamo così, la certezza, potrei dire, le prove, sì, che invece su una squadra, sì, con le strisce bianco-nere che si chiama Juventus, sia gli arabi che il gruppo Marbok, nella persona del figlio maggiore di Marbok, hanno fatto carte false per investire sulla quota azionaria di maggioranza della Juventus. Solo che John Elkann, o chi per essi, comunque chi comanda nella Extor, gli ha detto di no. Noi abbiamo soldi di vecchia data, non abbiamo bisogno di investitori. Quindi forse guardi, anche se nel 2006 hanno cercato di distruggere questa società. Grazie dell'informazione, Franco. Io non ho le prove che ha lei, ma l'ho ascoltata con molta attenzione. Mi limito a sottolineare che la Juventus è l'unica squadra italiana ad essere gestita con criteri europei, partendo dallo stadio, partendo dalla gestione delle politiche societarie, eccetera, eccetera, eccetera. Poi non lo so che cosa accadrà in futuro, però in effetti in questo momento, da un punto di vista economico, la Juventus potrebbe essere l'unica squadra appetibile per investitori stranieri. Però attenzione, investitori stranieri che possono vedere nella Juventus un affare appetibile, ma vanno a ficcarsi nel pantano del calcio italiano, e lì li voglio vedere, e lì poi li voglio vedere, perché dalle nostre parti le logiche, se le capiamo, e quando le capiamo soltanto noi, e questo gli investitori stranieri lo sanno perfettamente. Mario da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire riagganciandomi alla telefonata precedente e poi alla telefonata della signora Maria di ieri alle 3, che era tipo, sì, da Juventina, sì, 86. Ma niente, anch'io seguo la Juventus da di meno, ho 42 anni, quindi la seguo da di meno. Però per agganciare tutte queste telefonate a, sì, un discorso economico, un discorso commerciale, un discorso di mercato, bisogna capire che la Juve è partita da quello che è successo nel 2005-2006, quindi ha resettato completamente quadri dirigenti, squadra, ha resettato tutto, è partito da zero, ha costruito anche uno stadio, sì, e con questo ci ha costruito su un business che gli permette di avere, come dice lei, dei parametri europei. Ha speso molti soldi, spesso male, ha cambiato e ricambiato, alla fine ha trovato la formula giusta. Non dimentichiamo che la Juventus, è vero, si è dovuta ricostruire, che il grande danno di Calciopoli, ma non vorrei ritornare su cose già dette mille volte, il grande danno di Calciopoli non è stata tanto la retrocessione in Serie B quanto il fatto che una squadra è stata totalmente azzerata, e poi per rinascere ci vuole del tempo, sono stati spesi un mucchio di quattrini, è stato fatto l'investimento dello stadio, alla fine la Juventus ha trovato una squadra nell'anno in cui è entrata nello stadio nuovo, no? E se posso lasciare l'ultima, anche ai tifosi milanisti, che io sono un tifoso di Juve ma sono uno sportivo, credo che anche per tutte le squadre questo risanamento, partendo da una base di giovani, una base solida economica, farà sì che poi alla fine allo sviluppo porterà delle squadre di nuovo forti, come è successo in tutti i campionati, perché quell'inglese che esaltiamo tanto, dopo l'Eisel è stato un disastro per decenni, adesso è esaltato, ma sono partiti da zero. Sì, loro, però certo, Mario, è vero, però non dimentichiamo che la Juventus non ha fatto soltanto una politica di giovani, ha fatto una politica di acquisti, ha fatto una politica di denaro, e il denaro comanda, il denaro è quello che, brutto, odioso dirlo, il denaro è quello che ti fa vincere oggi nel calcio. La Juventus ha speso molto denaro per costruire la squadra che ha adesso, ripeto, anche con molti errori, ma per trovare le squadre che vincono bisogna seguire, lo ripeto, la scia dei soldi. A tempo di sport. Prima di continuare a chiudere con gli ascoltatori, io vorrei divagare un po' fuori dal calcio, come mi piace sempre e tanto fare, e andare sulle strade di una Vuelta in cui ieri abbiamo ritrovato, dopo la squalifica, Contador, che insomma ha dimostrato coi pedali e con la bicicletta che non ha passato questo tempo di squalifica a piangere o a letto a dormire, ma lo ha passato caricandosi di una rabbia che ieri gli abbiamo visto in faccia. Mi sbaglio, Pier Augusto Stagi? No, non ti sbagli assolutamente, hai detto quello che tutti gli appassionati di ciclismo hanno visto. Contador è un fuoriclasse, è nato per le corse a tappe, per dare spettacolo, per attaccare, per essere migliore in salita, e questi sei mesi di inattività forzata per una intricatissima vicenda di doping mi sono serviti solamente per accumulare quella voglia agonistica di rifarsi subito e di dimostrare al mondo che lui è comunque, a prescindere, il più forte. E ieri credo che gli appassionati si siano divertiti, perché in una salita non impossibile, ma certamente selettiva, di 6 chilometri, lui ha fatto 6 attacchi, 6 progressioni, 6 scatti, ha messo tutti alla frusta, ha già fatto perdere solo, siamo alla terza tappa, oggi si correrà la quarta con un altro arrivo in salita anche quest'oggi, quindi mi raccomando, dopo questa trasmissione sintonizzatevi su Eurosport, preposti per seguire in diretta, preposti, sì, no? Per seguire in diretta il Giro di Spagna. Però lui non ha guardato in faccia nessuno, ha veramente scattato in faccia a Chris Froome, che è questo ottimo corridore britannico nato in Kenya, che è arrivato secondo al Tour de France, si è sacrificato per Bradley Wiggins, credo uno dei grandi sportivi di quest'estate 2012, e però Froome adesso, dopo aver fatto secondo l'anno scorso proprio il Giro di Spagna, mira al bersaglio grosso, solo che sulla sua strada ha già capito che dovrà vedersela proprio con Alberto Contador, che ha il dente avvelenato, che è cattivo, che deve rimettere a posto la sua bacheca, perché gliel'hanno sostanzialmente rovinata. Sì. Ricordiamo che la vicenda intricata di doping, carne contaminata, ma non annoiamo gli ascoltatori, comunque gli è costato un Tour de France, che per lui sarebbe stato il terzo Tour de France, quindi ne ha perso uno, e invece ingiustamente, a mio modesto parere, ha perso anche il Giro 2011, cioè, quello invece è stato corso assolutamente da pulito, l'ha dominato, però per l'UCI ha fatto l'UCI, che è il governo mondiale della bicicletta, ha pensato bene di toglierlo, perché ha detto: no, guarda, tu in quel periodo non avresti dovuto correre, quindi tutte le vittorie che tu hai ottenuto te le togliamo. Sì. E quindi gli hanno tolto anche un Giro d'Italia, perché lui avrebbe già un palmarès di assoluto prestigio, no, con tre tour, due giri. No, certo, non c'è dubbio. E quindi adesso vuole ricostruirselo, e soprattutto non fa nessun tipo di conto, perché fare i numeri che ha fatto all'alba di una corsa a tappe vuol dire che non la vuole vincere, la vuole stravincere e dominare. Non sarà così facile, perché non si digeriscono sei mesi di inattività così facilmente. Il Contador dovrà faticare, secondo me, però di sicuro sta dando dei messaggi, ha voluto mettere subito le cose in chiaro, ha, diciamo, mostrato immediatamente alcune sue carte e ha detto: io ci sono e lotterò fino alla fine. Quindi chi vuole vincere questo Giro di Spagna deve fare conti con me. Certo, bisogna vedere se riuscirà a arrivare alla terza settimana con la sua solita condizione. Lui è uno che ha nel DNA il recupero, riesce a recuperare con grande facilità l'affaticamento, però ribadisco, è sei mesi che non corre, sulle gambe ha solamente il giro dell'Eneco Tour, che ha chiuso al quarto posto, quindi comunque ha fatto vedere subito delle buone cose, però questa è una gara di 20 giorni e quindi cambia tutto. È interessante, diciamo che corrono con l'handicap sia Froome, perché ha come attenuante il fatto di avere già nelle gambe e nella testa, nei polmoni, il tour, però il buon Contador invece ha sei mesi di inattività, potrebbe approfittarne il terzo incomodo, Valverde, in caso, che potrebbe essere, no, secondo me, Joaquin Rodriguez, che invece lui ha fatto secondo al Giro d'Italia e quindi ha avuto un periodo di scarico piuttosto importante, quindi dovrebbe essere sulla carta uno degli uomini più freschi. Bisogna vedere se tra i due litiganti vincerà Joaquin Rodriguez. Io spero, per il ciclismo e per lo spettacolo, che tutto si decida soprattutto nell'ultima settimana, e un Alberto Contador che torna a recitare un ruolo da primo attore farebbe comodo per tutto, anche a noi italiani che spagnoli non siamo. 800 24 00 24, se volete ancora intervenire. Intanto io noto come non male questo Capecchi, che ieri è arrivato settimo in questa tappa, che è rimasto con Contador e con i migliori, che è il primo degli italiani in una classifica generale ovviamente ancora in pieno divenire, a 59 secondi da Valverde. Sì, Capecchi è alla sua prima corsa tappe da capitano, sarà tra l'altro l'ultima corsa che farà con il team italiano, ex ormai di Nibali, perché anche Nibali è avviato a diventare capitano il prossimo anno della Astana, formazione casacca. Anche lui migrerà, lascerà la Liquigas per andare alla Movistar, formazione di Valverde. Un Zue che è stato insieme ai Cevarri il grande mentore di Miguel Indurain, crede ciecamente in questo ragazzo toscano di ottime qualità, che è sempre stato un po' tenuto a freno o comunque ha dovuto sempre lavorare per capitani come Nibali e Ivan Basso. Adesso gli si presenta la prima vera occasione, che è quella di essere capitano unico al Giro di Spagna. Ieri ha fatto un buon piazzamento, 12esimo in classifica generale, paga soprattutto una cronosquadra non buona, dove hanno perso più di 40 secondi sabato nel cronoprologo, però ci sono tante salite. Ricordiamo che questa Vuelta di Spagna, ieri c'è stata una riva di salita, oggi ci sarà il secondo e ce ne saranno altri 8, quindi c'è veramente un'indigestione. Forse un po' eccessivo, forse il Giro d'Italia è stato, ma poi il Giro d'Italia è stato morbido, l'abbiamo criticato. Abbiamo criticato il Tour de France, che è stato corso a cronometro. Meno male che alla fine troviamo una Vuelta a Spagna con mille salite e un sacco di fatica. Va quasi a compensare ciò che non abbiamo visto nelle altre due grandi corse a tappe. Ho paura che gli spagnoli ci porteranno via lo slogan del Giro d'Italia: la corsa più dura del mondo. Il paese più bello nel mondo. In realtà questa mia era la corsa più invidiosi, ci rubano anche quello. Così nel paese più bello del mondo, confermo. Il problema è che ci facciamo un po' sempre superare dagli altri. Questa era la nostra prerogativa, perché il Giro d'Italia era la grande corsa delle grandi montagne, la gara proprio della fatica. In questo caso la Vuelta, che ricordiamo adesso è di proprietà, le azioni maggioritarie ce l'hanno l'ASO, che sono gli organizzatori del Tour de France, e loro da buon furbone stanno facendo di tutto per metterci in difficoltà anche sotto questo aspetto. Grazie Pier Augusto, ci sentiamo alla prossima. Grazie Carlo, buon pomeriggio. Ciao a Pier Augusto Stagi, ascoltatori, c'è Michele dalla provincia di Napoli, abbiamo ancora, in realtà poco, ma domani torniamo, dalle 2 alle 3, sempre qui con A Tempo di Sport. Domani formazione di servizio ci sarà, domani e dopo ci sarà Claudio Arrigoni a tenervi compagnia, io poi torno venerdì anche in prospettiva weekend primo di campionato, come sapete un weekend di primo weekend di campionato, ma anche secondo in realtà, che si gioca prevalentemente la sera, che verrà aperto da Fiorentina Udinese alle 18 del sabato, poi Juventus Parma sempre sabato 20:45, nel pomeriggio Pazzini contro la Sampdoria, perché credo giocherà nel Milan contro la Sampdoria alle 18, tutte le altre alle 20:45, con magari il debutto di Cassano a Pescara, dove ci sarà uno stadio totalmente esaurito. Quindi questo è lo schedule per il weekend. Programmazione serale che verrà seguita anche nella seconda giornata di campionato, poi tutti fermi per la nazionale. Michele, provincia di Napoli. Ciao, buongiorno. Buongiorno Michele. Allora, giusto da un competente, come vede la situazione del Napoli? Se dobbiamo stare ancora tranquilli con un presidente come De Laurentiis? E come no? Sta spendendo quello che ha ricevuto dalla vendita di Lavezzi. Poi per il resto noi li chiamiamo scartine, Berami non tanto, Gamberini ha fatto gol, però cioè, vengono da una società che era quasi fallita, insomma, come la Fiorentina, che ha fatto un mercato stupendo, secondo me. Vero, la Fiorentina abbiamo appena non detto. Non vedo perché una piazza come Napoli debba aspettare gli ultimi giorni e un allenatore come Mazzarri debba aspettare gli ultimi giorni per avere qualche giocatore che lui poteva già inserire in un gruppo, insomma, e fare bene già dall'inizio. Ma guardi, secondo me De Laurentiis, al di là delle sue bizzarrie, delle sue uscite, ha una conduzione del Napoli molto lineare, che io appoggio totalmente, perché molto al passo con i tempi, è molto moderna, se mi permette il termine, in epoca di crisi. Se spende quello che ha incassato con Lavezzi, benissimo fa, perché sistema la squadra e lascia tranquilli i contabili. Io vedo un Napoli competitivo come e più dell'anno scorso. Adesso, se riuscirà, ma ci riuscirà, a trattenere ancora per una stagione Cavani, potrà competere certamente per quel terzo posto che è vacante. Secondo e terzo posto sono totalmente vacanti in questa stagione. Ugo da Rimini, velocemente, dica. Salve Genta, questa cosa io volevo semplicemente dire: le condizioni di Cassano che sono state valutate effettivamente dallo staff dell'Inter, perché è una cosa penso molto importante. Un'ultima cosa, io sono tifoso del Rimini. Qualche anno fa avevamo un presidente purtroppo deceduto che acquistava con fior di quattrini. Quest'anno abbiamo rivalutato una squadra fatta di giovani e di gente semplice. Sì. E stiamo rivalutando veramente il calcio della provincia, che è fantastico, è favoloso. Lo so, Ugo, ma questa è anche la strada da seguire. Il calcio della provincia deve essere il calcio dei giovani, questo è in dubbio. Quanto alle condizioni di Cassano, visite mediche previste per oggi e poi la firma e via, credo andrà così. Io ringrazio Massimo Brugnone oggi in redazione, Paolo Corleoni in regia. A Tempo di Sport torna domani alle 2. Ciao a tutti.